Programma radio, radioprogramma. Programma radio, radioprogramma. Amo il papà, amo la mamma, amo la musica e far la mamma. Suonata. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. È quel dolore che dà l'amore, che dà la gioia, che dà il dolore, che dà l'amore, che dà il dolore, che dà la gioia, che dà l'amore. Musica, tempo di musica. Se la musica Il tuo non parlare mi ha fatto innamorare. Cause we're here to inspire. You will feel the groove when you take the time to move. Concentrate on what's been stated. Allow yourself to be elevated. Elevated. Elevated. When you take the time to move. presenta Radio Italia Network. Che brutto tempo che sento dentro, quando la gente parla tanto senza senso. Non c'è più tempo per le parole, quante parole, solo parole. È stato questo, è stato quello, oppure l'altro, oppure forse chi lo sa. Io non c'entro. Se non ti piace questo tempo, fai qualcosa e cambia il tempo. E non sperare sempre che le cose cambino da sé. Non c'è più tempo per questo tempo. We'll be right back. mangia un cannolo, però sta attento, colesterolo. Choice. 5 meno un quarto. Poi scusate, ma vado dal mio sarto.